Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Si comincia! Si comincia e il meglio deve ancora venire. Ore 18, il derby di Torino, Juventus Torino. Tra l'altro, notizia dell'ultimo minuto, non ci sarà Buffon, che ha un problema alla spalla, e al suo posto gioca Storari. Non sono però ancora arrivate le formazioni ufficiali. Poi questa sera 20:45 c'è Roma-Inter, domani c'è Sampdoria-Napoli. 800 24 00 24, noi siamo qui in diretta fino alle 19, telefoni aperti, aspettiamo le vostre chiamate. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia, Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Il meglio deve ancora venire, te l'ha detto Mazzarri. Il meglio deve ancora venire, me l'ha detto Mazzarri, però ci siamo anche divertiti questo Quando? Pomeriggio. Sì, sempre ci divertiamo e aspettiamo gli ascoltatori della nostra casa della domenica, sì, fuori dagli stadi, fuori dal 90° minuto, tutti qui. Di cose di cui parlare ce ne sono. Seguiremo insieme il derby di Torino, poi c'è il Genoa solo al terzo posto, e questa ha preso a pallonate è la notizia della domenica per il momento. C'è la Fiorentina che è stata rilanciata dalla cura Zeman. Cagliari fa contenti tutti? Sì, tutti tranne l'Inter. Tutti tranne l'Inter, perché a ogni regola ci sono le eccezioni. Oggi ha fatto contenta la Fiorentina, ha fatto contenta. Cosa è successo? Perché non riesco a parlare? Vai. Ha fatto contento Mario Gomez, che sì, non segnava da 8 mesi. Sì, e ha sbagliato. Prima ha parato un tiro di un suo compagno nel primo tempo, ha salvato sulla linea del Cagliari un colpo di testa di Basanta destinato al fondo del sacco. Poi ha sbagliato un'occasione facilissima al 15°. Poi è riuscito perfino a segnare. Il Cagliari, come detto, fa contenti tutti. 4 pere anche dalla Fiorentina a domicilio. E poi c'è stata la corrida di San Siro, Milan-Udinese 2-0. Milan che non vinceva da un mese, doppietta di Menez. Grande lavoro per i moviolisti, sì. Gol, non gol di Rami. Quel rigore su Onda che farà discutere molto. Allora noi ci togliamo subito il dente. Carlo Tiziano Pieri, ciao Tiziano. Buon pomeriggio a tutti, a te Giovanni, a Carlo. Ciao Tiziano. A tutti i tuoi ascoltatori. So che sei in fase di montaggio per 90° sì, minuto. Stiamo montando gli episodi proprio di Milan-Udinese. Allora, da cosa partiamo? Da quei 2 centimetri, credo, che hanno tenuto fuori il pallone di Rami. 16° del primo tempo, colpo di testa di Rami, palla vicino al palo, Karnezis la mette fuori, gol, non gol. Credo che le immagini abbiano chiarito, ma a fatica. Sì, sono immagini che col colpo d'occhio rendono gol questo episodio, però andando nel particolare a livello regolamentare, quindi prendendo il regolamento alla mano, si può parlare di centimetri se non di millimetri di un gol fantasma, perché sembrerebbe che il gol non sia mai avvenuto, quindi, perché il pallone non è entrato interamente. Ricordiamo che per essere gol deve entrare interamente all'interno della porta. Sì. Allora possiamo dire una grande chiamata arbitrale della banda di Valeri? Posso dire una grande botta di... Vabbè, no, perché, ci sta anche perché quello, il tema, secondo me, è fortuna. Il tema è che l'addizionale di Porta, il signor Massa, credo, nell'occasione... Sì, Davide Massa. Era assolutamente impallato. Cioè, era impallato, però diciamo impallato e fortunato, diciamo. Ovviamente con il regolamento, una volta iniziò l'esperimento dei giudici di Porta, degli addizionali, iniziò dall'altra parte della porta. In Europa League nacque questa figura nuova arbitrale, nacque dalla parte opposta, poi venne spostato dal lato dell'assistente, e quindi forse con la prima sperimentazione Massa avrebbe potuto vedere meglio, però il risultato non cambia perché ha deciso bene, ha coadiuvato molto bene Valeri. Sì, in tanti si chiedono perché è piazzato proprio lì dove già su quell'asse c'è il guardalinee. L'ho appena spiegato, proprio perché in fase sperimentale hanno ritenuto questione di diagonali degli arbitri. Bravo. Questione di diagonali degli arbitri. Poi c'è quel rigorino, a essere generosi, abbiamo discusso in redazione, a me era parso evidente sin dall'inizio il tocco di braccio di Onda che si aggiusta al pallone, poi c'è un mezzo contatto con Domizzi. Tu come l'hai vista? Ma guarda, il rigore ci può stare, diciamo che viene danneggiato Onda, poi non fa nulla per rimanere in piedi, anche perché comunque quando ti trattengono poi non riesci a arrivare prima sul pallone, di conseguenza il rigore ci può stare e a mio modo di vedere può essere anche giusta l'espulsione. Il problema è che Onda una frazione prima si aggiusta il pallone con il braccio, di conseguenza in questo caso l'addizionale, il giudice di porta Pairetto, non è stato all'altezza come massa nel coadiuvare la decisione nella fattispecie, sì, perché era lì con visuale libera, diciamo, non era difficilissimo da vedere il tocco di braccio per l'addizionale che si trovava a un paio di metri. Poi c'è stata anche l'espulsione di Essien nel finale, sì, di partita. In tanti hanno detto ecco qui la compensazione, perché forse Valeri si è accorto che il rigore non c'era. A me non piace mai parlare di compensazione, diciamo che Essien non ha fatto nulla per non essere espulso, anche se tante volte queste sbracciate qui le abbiamo viste perdonate se si tratta di secondo giallo. Eccessiva espulsione di Essien. Si può anche interpretare a livello regolamentare questo. Io non credo che Valeri si sia fatto condizionare, può essere una valutazione sbagliata, non certo una conseguenza all'episodio precedente o all'espulsione di Domizzi, perché in campo hai solo certezze, nel momento in cui decidi poi sei convinto. Il problema è che Sien mette effettivamente una mano sul volto e non è corretto, non è un'espulsione diretta ma una doppia ammonizione, ci può stare, un po' tirata però ci può stare, ecco. Anche perché l'equilibrio della partita si era rotto, quindi c'era una squadra in 10, a volte è più facile spellere. Tutto lì, se vogliamo fare questa considerazione è giusta. Comunque non aspettiamo grandissime pagelle domani per Valeri e per i suoi assistenti. Purtroppo penso a una gara complicata, che sia stata una gara complicata, di conseguenza molto probabilmente non avranno voti positivi, anche se nella fattispecie la direzione di gara, tolto questo episodio del rigore che poi è stata la discriminante di tutta la partita. Sì, alla fine è un episodio che decide. Poi il tema è, ieri a Manchester in 30 secondi hanno risolto tutto con la Goal Technology. Noi continuiamo con ad aspettare. Goal Technology, sì, è vero. L'episodio che porterà anche in Italia a utilizzare questo orologio. Continueremo ad aspettarla ancora per un po', purtroppo, temo. Tiziano Pieri, grazie, ciao. Ciao, grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie a Tiziano Pieri che restituiamo 90esimo minuto. Sono mega d'accordo con la brutta pagella per Valeri. Chiaro, espulsione, il rigore è un episodio decisivo. Però il rigore decide la partita, perché alla fine decide la partita a 25 minuti della fine. Chiamata, saranno stati fortunati, però su quella palla che alla fine non era entrata, bravi e fortunati come nel calcio bisogna essere. Ci fermiamo, traffico. Ah, sono Lapo, col mio levriero. El Can anche lui. In questo momento difficile, una specie di ground zero del nostro paese, il derby Juventus Torino dovrebbe avere la capacità di trasmettere sempre energia e al contempo stesso valga sempre il prezzo del biglietto che comprino, che comprassero, comprabbino. Convocati. Prova il sinistro! Del palo incredibile! Sì, io credo che non andrà oltre il 5 Valeri e tutta la sua banda, perché poi quell'episodio lì, l'episodio del calcio di rigore, decide. Andiamo a San Siro, Dario Ricci. Ciao Dario! Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie per la convocazione. Sì, si parlerà tanto dell'arbitraggio di Valeri, cominciamo a farlo con Gibi Olivero, inviato della Gazzetta dello Sport. Gibi, sì, il gol non gol al 17esimo, il colpo di testa di Rami, e quella era una questione di centimetri, ma forse dal punto di vista dell'arbitro, del giudice di porta, più grave quanto accaduto sul rigore, quel tocco di mano di Onda, che poi è sembrato forse più evidente. Come l'hai visto? Sì, anche secondo me, insomma, quell'episodio è stato valutato male dall'arbitro come tanti altri, perché probabilmente è stato eccessivamente severo con Essien. L'espulsione di Domizzi nasce dalla lettura sbagliata della situazione del rigore. Insomma, non è stata una direzione fortunata, diciamo così. Come avete visto il Milan, al di là degli episodi arbitrali? Ecco, soprattutto GB, ti chiediamo come hai visto il Milan. Personalmente una squadra molto contratta, molto conservativa direi, sempre il passaggio facile, proprio perché c'è la paura che forse allungandoti qualcosa di brutto possa succedere. Tu come l'hai visto? Ma anche perché comunque ci sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche abbastanza chiare e magari manca l'elemento soprattutto a centrocampo che sia in grado di dare quel qualcosa in più a livello di qualità e di cambio di gioco, di cambio di passo. Insomma, vedremo se sarà Montolivo questo giocatore, visto che oggi è rientrato dopo la lunga assenza. Di sicuro è stata una squadra che ha spinto molto di più sulla destra, come l'ha accaduto nel corso della stagione, soprattutto nel primo tempo con Bonera che ha spinto tanto, però mancava sempre in area qualcuno sui traversoni, perché comunque è una squadra costruita senza centravanti classico e quindi o i tagli sono puntuali, ma spesso arriva un ritardo Onda, in particolare del Sharabi un pochino, e quindi mancava proprio il colpo al centro dell'area che potesse sfruttare i traversoni che arrivavano. Promina anche ha scelto di non concedere spazi, come dicevi giustamente tu, insomma, per evitare di allungarsi e di aspettare l'occasione propizia, che poi è arrivata sotto forma del rigore, che effettivamente ha sbloccato la partita. Poi Menezza ha fatto il secondo gol nella situazione che più, nella situazione tattica che più congeniale a questo Milan, cioè la ripartenza in cui magari le doti tecniche dei giocatori offensivi possono emergere. Sì, Menezza, che tra l'altro ha detto Gagliani questa mattina aveva anche 38 di febbre, non doveva giocare, avrebbe dovuto giocare al suo posto Fazzini, poi invece si è ripreso e quantomeno questi due spunti l'ha fatti. E ti chiedo anche una valutazione GB su Van Ginkel, piuttosto, diciamo, praticamente all'esordio, perché per la prima volta i suoi 90 minuti, molto scolastico, e insomma, sembrato un bambom e le lento, ho detto tutto. Sì, a me non è piaciuto, è vero che comunque un giovane al debutto da titolare va anche un po' magari atteso, capito, aspettato, non mi è piaciuto perché non ha mostrato magari quella personalità, ha scelto sempre una soluzione abbastanza semplice di passaggio, però ripeto, è anche normale se vogliamo che in un momento in cui il Milan cercava una vittoria che non arrivava da tanto tempo e lui viene messo per la prima volta magari nelle condizioni di giocare dall'inizio, quindi un po' titubante, potesse anche aver un po' di paura, diciamo, giocare. Pian piano lo vedremo in altre occasioni, vedremo se si sarà scrollato di dosso questo timore. Dario, mi dite se, come abbiamo io e Carlo l'impressione, Menezza ha vinto definitivamente il ballottaggio con Torres a proposito di centravanti? Allora, GB, il centravanti del Milan ha ragione Gagliani, e Menezza ha vinto il ballottaggio con Torres, chissà quando lo rivedremo, lo spagnolo. Ma in questo momento sicuramente, quantomeno ha fatto 7 gol, anche se 4 su rigore, Torres ne ha fatto uno solo. Io credo che a prescindere da chi sia il centravanti, il Milan per adesso abbia giocato meglio con il 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1. Poi dipende sempre anche dalle caratteristiche dei due eventuali mediani del 4-2-3-1, perché una cosa se ci sono due mediani e basta, un'altra cosa se insieme a De Jong ad esempio c'è Montolivo, quindi bisogna sempre vedere qual è la composizione, chi sono i giocatori. Con il 4-3-3 fino adesso il Milan ha giocato meglio, e ha giocato meglio con il 4-3 con Menez, perché comunque è una squadra che non dà punti di riferimento e magari questo aiuta a coprire qualche lacuna e esaltare i pregi individuali. Grazie, bene, Dario. Ciao. Bene, grazie. Se ciao, stai grazie. Lì ancora un minuto, Dario, poi ti voglio chiedere qualcosa invece sulle reazioni dell'Udinese, Carlo. Ma non ha fatto schifo il Milan. No, soprattutto primo tempo, un ottimo primo tempo. Milan che gioca assolutamente meglio con Menez là davanti. Sì, ma questo l'abbiamo già capito, l'abbiamo appurato, non doveva giocare. Questo però giocare non è ancora agli atti. Non è ancora agli atti. L'abbiamo ma non appurato, andrà agli atti, non ma andrà non agli è atti, ancora ma non, da dare non, per non scontato. Ci andrà perché Torres alla fine il suo spazio dovrà averlo, perché abbiamo detto molte volte è la figurina più pregiata, o forse l'unica appiccicata sull'albo. A parte che per me la figurina pregiata è Bonaventura, oltre a Menez naturalmente, sono queste le due figurine di spicco in questo nuovo Milan. A me non è dispiaciuto il Milan, poi Inzaghi, sai, si trova sempre alle prese con la banda degli scontenti. Oggi abbiamo visto Van Ginkel irrilevante, abbiamo visto Armero a tratti nocivo. Abbiamo visto Pazzini giocare 11 minuti alla fine con anche un'occasione da gol a disposizione, pensa se avesse fatto gol perfino il pazzo. Però detto tutto questo, a me il Milan oggi non è dispiaciuto. No, soprattutto nel primo tempo. Uh-huh. 800 24 00 24, fra pochi istanti vi diamo la formazione ufficiale del derby. Attenzione, perché c'è il presidente Pozzo a Sky, sentiamolo. Ovviamente, no? C'è un rigore su Badu, no? È un arbitro che è difficile, per me non può arbitrare, perché io ho solo l'esperienza con l'Udinese, è stato sempre un arbitro che ha sbagliato tutto e mi dispiace molto, perché io amo il calcio, sono qui da 30 anni, difendo, diciamo, questa istituzione e sta migliorando sotto tutti i profili, fa dei passi avanti in tutto, anche gli arbitri sono bravi, perché io non ho nessun problema, sono due o tre arbitri scarsi, si elimina questi arbitri, compreso questo qui, fanno una grande cosa per il calcio, no? Perché questo qui inquina un po' un ambiente bello, dove effettivamente adesso nessuno possiamo lamentarci degli arbitri, quei due o tre arbitri rovinano tutto, questa è la verità. E tra questi è questo Valeri. Toccata piano. Questo è il patron Pozzo che la tocca pianissimo, sì. Su Valeri, è vero, abbiamo dimenticato anche il tocco di Armero su Badu, sì, tocco che ha dato l'impressione di essere così. Calcio di rigore, no, così siamo così, completi così. Nella ricostruzione della domenica, non una cosa clamorosa Udinese tra l'altro, che aveva dei precedenti con Valeri, già in settimana ne aveva parlato Pozzo. Andrea da Pordenone, 800 24 00 24. Andrea. Sì, buonasera, io chiamo appunto perché prima avete parlato di gol fantasma e non essendo gol non c'è neanche il fantasma. Sì, abbiamo parlato di gol fantasma, Andrea, per definizione giornalistica, poi abbiamo spiegato che quel pallone lì non è entrato del tutto, però prego. E poi sullo 0-0 c'era rigore su Badu, sì. Netto. Beh, quindi netto. Fucilazione c'è sul campo tocco. Per Valeri, come detto, no, c'è un tocco fucilazione, no, però l'idea di essere rigore. La realtà della partita è stata questa, poi l'Udinese ha meritato di perdere perché ha giocato male, un Bile soprattutto nel primo tempo ha giocato meglio i primi 30 minuti, però stiamo parlando di un rigore contro l'Udinese inesistente, un rigore a favore dell'Udinese sullo 0-0 non dato e un'espulsione che non c'era, insomma, ecco, fondamentalmente poi rimangono i meriti del Milan. Sì. La realtà della partita è questa, insomma. Sì. Ecco. No. In un gioco fatto di episodi possiamo anche leggerla così. È evidente che il calcio di rigore con espulsione decide roba, la partita, certo. Spacca in due, perché il Milan in quel momento faceva fatica a trovare occasioni, a trovare la fluidità del primo tempo, perché lascia l'Udinese in 10 per mille motivi. È evidente che quella è una decisione che pesa tantissimo e per questo difficilmente domani Valeri e i suoi collaboratori avranno la sufficienza, però anche l'attacco di Pozzo è tanta roba, è un attacco duro. 800 24 00 24. Alessandro scrive da Trento: che partite avete visto? Benvenga un giocatore come Van Ginkel. L'abbiamo chiesto all'inviato della Gazzetta, esatto, dello Sport. Qui è durissima capire e valutare. Io prima l'ho chiesto anche a Capuano: ma come sta giocando Van Ginkel? Cioè, lì in mezzo stiamo guardando tutte le partite possibili. Io non l'ho visto brillantissimo per quel che si è potuto intuire. Meno brillante lui certamente Armero, che invece ha giocato proprio male. Ho visto un paio di appoggi da brividi dell'ex giocatore del Napoli, Calimero. Armero direi rivedibile. Questa fa parte del capitolo degli scontenti che Inzaghi a turno deve far giocare, no Giovanni? Comunque Milan che ha ritrovato la vittoria, Milan che sale a quota 21, in continua in questo parallelo tra Inzaghi e Seedorf, continua a essere dietro Inzaghi, perché Seedorf dopo 13 partite aveva fatto qualcosa di più. Franco da Milano, Franco? Non c'è? Non c'è. Allora vi do le formazioni del derby. Guarda che non era entrata la palla, eh? Hai visto? No, non era entrata. Non so qual è la tecnologia, questa tecnologia di Sky. Stiamo parlando di millimetri, ma la palla non era entrata. Allora, proviamo a riprendere Franco da Milano. No, lo prendiamo dopo. Formazioni ufficiali del derby. Dunque, abbiamo detto, nella Juventus non c'è Buffon per un problema alla spalla, quindi gioca Storari, poi linea difensiva formata da Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini ed Evra, poi a centrocampo Marchisio, Pirlo e Pogba, quindi Vidal dietro le due punte che saranno Llorente e Tevez. C'è qualche novità di formazione anche per quanto riguarda il Toro, c'è Gillet in porta, poi sulla linea difensiva ci sono Maximovic, Glick e Moretti, nei cinque di centrocampo ci sono Perez, Gazzi, Vives, El Kadouri e Darmian, e davanti con Quagliarella c'è Amauri. Quindi mi sembra una scelta di Ventura di farci vedere oggi un Torino abbastanza offensivo. Fammi salutare Dario Ricci da San Siro. Dario. Sì, un saluto. Chiaramente abbiamo sentito Patron Pozzo. Sono improntati su quel tono e stiamo aspettando che escano i giocatori, però per quanto riguarda un altro paio di note in merito al Milan, bene, come ha sottolineato Carlo, Bonaventura, quando lui si è abbassato in regia la palla girava sicuramente più veloce a centrocampo, bene anche il Shaarawy che è andato vicino al gol, Van Ginkel, confermo quanto abbiamo detto prima, insomma, ha giocato una partita a mio modo di vedere molto modesta, molto scolastica, ma chiaramente merita una prova d'appello per il contesto, l'esordio, insomma, sicuramente da rivedere oggi, non direi oltre il 5. Sì, è aperto il dibattito su Van Ginkel, scrive anche un amico via SMS 349-238-6666. Ero a San Siro, Van Ginkel è stato assolutamente improponibile. Eddie Armero, ne troviamo 10 anche in Serie C. Irrilevante, abbiamo delle conferme sulle impressioni che abbiamo avuto. Sì, ha giocato male. Ciao Dario, grazie. Ciao Dario, ciao, ci fermiamo, pubblicità. Io rappresento una parte bella della storia della Juventus. Il derby lo vincerà il migliore, c'è la Juventus, è senza aiuti. Scusate, chi è? Ah, Orsato, sì, ti avevo cercato, perché, per un salutino. Tutti convocati. Pubblico scatenato. Sì, scatenato anche Gagliani, 800-24-0024. Cosa ha detto Gagliani? Pochi istanti fa Milan Channel ha detto, proprio una bella domenica pomeriggio, la FIFA ha consentito la tecnologia, ma la colpa è il calcio italiano, il mio è un invito, vi prego, affidatevi alla tecnologia. Sì. In Inghilterra non ci sarebbero stati questi problemi, non si capisce chi ostacoli questa cosa, nessuno colpevolizza nessuno, ma in altri sport funziona, non si capisce perché non si faccia nel calcio. La tecnologia avrebbe detto che non era gol. Da domani inizio la battaglia affinché sì, venga introdotta questa novità, perché noi nel 2015 ancora siamo indietro. Oh, il tema è questo. Ha ragione, Gagliani ha ragione, però la tecnologia ragione avrebbe detto che non era gol. Ma non per capisco una volta, quale diciamo, sia no? il problema creato dalla mancanza di tecnologia oggi, visto che, secondo me, assolutamente con un colpo di fortuna, però alla fine la chiamata sul gol non gol è stata quella giusta, e semmai stiamo qui a discutere sul rigore con calcio, espulsione che non c'era. Calcio, un gioco di episodi. Però così ha parlato Gagliani, 800-24-0024, Franco da Milano. Franco? Sì, ciao. Eccoci. Sono milanista, ti volevo dire solamente un paio di cose. Vedi, sentendo l'ultima esternazione di Gagliani è patetico, primo. Secondo, il Milan si è dimesso da grande squadra 6 anni fa, io infatti 5 anni che non vado più allo stadio. Ma premesso questo, ti dico una cosa. Cioè, allora, finché noi giochiamo con i Van Ginkel e gli Armero, no? Che sono, non possono giocare neanche nel Lumezzane. Allora, Bonaventura è l'unico giocatore che è da Milan, si vede del 2-0. Anche Menez, Franco. Sì, ascolta. Bonaventura, quando fa il 2-0, gli dà la palla, la biglia giusta, ai tempi giusti, va dentro e fa quello che deve fare Menez, che è capace di fare. Okay? Sì, detto sì. Questo, cioè, a centrocampo, adesso quando rientra Montolivo, noi giocheremo con un centrocampo giustamente con Montolivo, De Jong quando rientra, Bonaventura e i tre davanti, perché di Pazzini e di Torres, che sono due giurassi che non riescono, e che hanno i piedi di frassino, non riescono a buttarla sì, dentro. Pazzini, okay, io lo rivedrei con calma, perché a botte di 10 minuti è difficile anche i piedi di farsi frassino un'idea. Ma l'ha sempre buttata, ecco, dentro in carriera, quindi è un giocatore aspetterei che comunque il suo l'ha fatto, Franco. Quell'altro invece è in declino già da tempo. Chi è? Pronto? Cosa succede? Complimenti ecco, vivissimi ragazzi per la trasmissione, sempre molto frizzanti, sì, molto estenuanti, esacerbanti, siete molto bravi. Arrigo, stiamo parlando di Milan Udinese. Buonasera, buonasera. L'hai vista? Saluto cosa anche Zente, oltre Capuano. Sì. Che veramente Arrigo Sacchi, buonasera. Ci conosciamo. Bravo, l'hai vista Milan Udinese? Sì, ho visto. Sì, cosa ne pensi dell'addizionale? Parliamo dell'addizionale, quello del gol. Sempre sì, eccessivamente alta, da qualsiasi angolatura la si guardi. Sì, no, il gol, l'addizionale. L'addizionale? Sì, massa. Beh, massa non so, ma la ricuta di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF a Fusignano è sempre stata molto ragionevole, poi dipende dalle gradazioni. Arrigo, stiamo parlando del gol fantasma, il gol di Ramin. Sì. Tu Carlo lo sai. Hai visto il gol fantasma? Io l'avevo intuito, perché il vedo non vedo è molto fashion, tira sì, di brutto. Ma era gol o no? Cosa hai visto? Complimenti vivissimi per la domanda, Capuano, perché sei sempre molto ficcante, la piazzi sempre sì, dove vuoi. Era gol o non era gol? Era gol o non era? È facile la domanda, È semplicissima. Cosa hai visto? Io dai, non ho visto una massa, perché ero dietro all'addizionale IRPEF, che a sua volta aveva davanti il portiere Carnesis, e quindi neanche lui ha visto una massa. In sostanza, sì, in sostanza è stato fortunato, non si è visto una massa. Poi c'era anche magari un che non c'era il rigore per il Milan, e lì l'addizionale ha sbagliato, Beh, indubbiamente, okay. Sai, è facile criticare. Cosa devono fare questi addizionali? E questo, beh, abbiamo, nel resto del mondo ci sono le tecnologie che aiutano. E da noi no, ha ragione Gagliani, l'hai sentito. Bisogna fare qualche cosa, perché non si può andare avanti in questo cosa? Modo. Beh, io potrei dare dei consigli, dispensare dei consigli agli addizionali, ma sono cose una tantum. No, sentiamo. Per esempio, io posso dare un consiglio generico, perché sai, andare a vedere solo su un episodio mi sembra che sia molto riduttivo. E quindi che consiglio gli diamo? Io posso dire: non usate mai il preservativo nero, perché snellisce un casino. Ha fatto bene a ricordarlo, io non ci pensavo, adesso vediamo di sfattare se ci riusciamo, ma è chiaro che è difficile, stiamo parlando della squadra più forte del campionato, ma no, non voglio usare frasi fatte, adesso riposiamoci domani e sabato prepariamo il derby. Quando l'arbitro fischia non è che siamo in vantaggio di 3-0, siamo in vantaggio di 12 derby, 13 derby a 0. Siamo 0-0 e quindi domani per vincere la partita bisogna giocare una partita, un'ottima partita. Troveremo una squadra che giovedì ha fatto una buona partita sotto il piano dell'intensità e sotto il piano tecnico, e sicuramente domani avranno più fiducia in se stesse e ci daranno battaglia. Questa è la vigilia, mancano ormai 20 minuti di Juventus Torino. Saluto Guido Vacciago, collega di Tutto Sport. Ciao Guido da Torino. Buon pomeriggio a tutti. Guido, però possiamo farti sentire, immagino. Ti possiamo far sentire qualche istante di Inzaghi, che finalmente è arrivato ai microfoni di Sky, sentiamolo. Avevo chiesto le prestazioni che c'erano state con la Sampdoria e con l'Inter, dove meritavamo, a detta di tutti, di vincerle le partite. E oggi a fine primo tempo ho rimarcato la stessa cosa. Dovevamo essere in vantaggio di 2-3 gol, eravamo 0-0, però con il gioco e il lavoro si ottengono queste partite. Oggi sono molto felice, secondo me è stata la miglior partita della stagione del Milan, per occasione create, per gioco. Oggi chiunque è venuto allo stadio si è divertito, e il mio obiettivo e dei miei giocatori è far tornare la gente a sorridere, il nostro presidente a vederci giocare, che so che è euforico, questo, e così siamo sulla strada giusta. Ben tre sono le telefonate, Ilaria, sì, il presidente. Un po' meno euforico il presidente. Non è Andrew Mercù, Inzaghi, quello vero, nonostante le battute facciano abbastanza ridere. Miglior partita stagionale, dovevamo essere davanti di 2-3 gol alla fine del primo tempo. Tutto questo mi sembra abbastanza eccessivo. Così come non so se Berlusconi sia esattamente euforico dopo questa vittoria sull'Udinese. Di sicuro un po' meno euforico Pozzo, l'abbiamo sentito prima. L'arbitraggio di Valeri non gli è andata giù. Andiamo però a Torino, Guido Vacciago. Guido. Eccoci qua. Derby sotto la pioggia, derby senza Buffon. Senza Buffon gioca Storari. Buffon però dovrebbe essere regolarmente in campo con la Fiorentina venerdì, questo per rassicurare il popolo bianconero. Si tratta di un colpo alla spalla che ha preso contro il Malmo, ma non dovrebbe essere niente di preoccupante. Diciamo che Allegri l'ha tenuto fuori per precauzione, forse ritiene più importante e più difficile la partita con la Fiorentina che quella col Torino, ma questa è logicamente una battuta. Perché c'è un po' di questa retorica del derby che appiattisce i valori in campo, poi si vanno a vedere questi valori. Ad esempio oggi tra Juventus e Torino ci sono 19 punti dopo 12 partite, lasciamo stare il tratto storico che la Juve non perde un derby dal 1995, che il Toro non segna dal 2002, insomma questa però è una partita che tecnicamente sulla carta è abbastanza semplice lettura, Guido. Ma sì, sono d'accordo, io l'effetto derby lo considero sempre, al di là della retorica, ritengo che comunque un minimo di effetto derby ci sia, però non voglio neanche farmi prendere troppo la mano da questo effetto derby, voglio guardare le formazioni, e guardando le formazioni la partita dovrebbe essere, se non segnata, perché quello non lo è mai, però comunque il campo dovrebbe essere in discesa da una parte, la Juventus, anche perché la Juventus è in un grandissimo momento, la Juventus sta molto bene, non giocherà Buffon, ma c'è sto orario, soprattutto giocheranno quei due là davanti, che sono in una condizione straordinaria. Sono d'accordo con te. Io credo che se Tevez gioca la partita che ha giocato contro il Parma, contro la Lazio, contro il Malmo, pescatene una a caso, comunque vada male per il Toro. Cioè devono sperare veramente in un Tevez che dell'anno scorso, il peggior Tevez dell'anno scorso, potrebbe non fare gol questa sera, o comunque non essere determinante per la vittoria della Juve come lo è stato nelle ultime tre partite. Dopodiché, per esempio, io vi invito a riflettere sulla fascia sinistra della Juve, la fascia destra del Toro, dove c'è questo Bruno Peres che sta facendo molto bene e a me piace tantissimo, al di là delle esagerazioni di paragonarlo magari a Cafu, mi sembra prematuro, ma sicuramente è un giocatore di altissimo livello, e affronterà un Evra che fino adesso è stato assai deludente e oltretutto arriva da un infortunio. Ecco, diamo una chiave di lettura tattica alla partita. Su quella fascia potrebbero esserci delle sorprese. D'altra parte, sull'altra, per esempio, io vedo Darmian ultimamente un po' involuto, un po' non certamente il giocatore brillante che era l'anno scorso, affrontare comunque Lichtsteiner e Marchisio, che probabilmente insisterà da quella parte, che sono due tra i giocatori più in forma della Juve, quindi potrebbe riequilibrare eventualmente quello che è il problema dell'altra fascia. Ecco, quindi io credo che questa partita sia divertente, credo che la pioggia magari potrà essere un ulteriore vantaggio per il Toro, se vogliamo metterla proprio così, retorica per retorica. La squadra che magari deve fare una partita più difensiva, sicuramente con il campo allentato è favorito rispetto alla squadra più tecnica, ma stiamo, mi rendo conto, sciorinando il luogo comune per cercare di dare un senso a questa partita. È un derby comunque. Dici che la palla è rotonda, città, e poi l'abbiamo fatta tutte. In città si è sentito, devo dire, più di altri anni. Forse proprio questa grande differenza tra le due squadre e quindi l'effetto risultato scontato ha creato tra i tifosi, e questa invece è una cosa meno scontata, ha creato tra i tifosi un minimo di brucio in più. È vero che i tifosi del Toro hanno snobbato i biglietti dello Juventus Stadium, infatti saranno poco più di 1000 e quindi il settore ospite sarà per lo più mezzo vuoto, però è vero che invece in città si è respirato il derby tutta la settimana, anche mentre le squadre erano impegnate in Europa, peraltro in partite determinanti per il passaggio del turno, nei bar si discuteva del derby, si parlava di derby, e questo in fondo è una bella cosa, perché è un ritorno alle tradizioni ed è una cosa che mi riscalda, insomma, riporta a un calcio in cui il derby comunque conta qualcosa al di là delle formazioni in campo. Grazie Guido. Grazie a voi. Grazie Guido Vaciago, un quarto d'ora esatto all'inizio del derby, traffico. Tutti convocati weekend mi chiedete un pronostico sul derby, sul derby di Torino, ben inteso. Non che le mie parole siano perentorie e definitive, ma in questa guerra psicotica che è il derby della Mole, che alimenta una sorta di ribellismo radicale, soltanto un urlo può echeggiare al triplice fischio di chiusura. Devo aggiungere altro? Tutti convocati. Simone Amico scrive se la Juve può sentire le fatiche di Coppa, come è capitato ieri al Chelsea. Ma sì, può sentire certamente le fatiche di Coppa, anche il Torino può sentire le fatiche di Coppa. Toro che ha avuto 24 ore in meno rispetto alla Juventus di riposo dopo l'Europa League. Il Torino ha fatto la pace con i suoi tifosi nella notte con il Brugge, tra l'altro per le nostre italiane, tema che butto lì, che vale per tutta la settimana, c'è sempre solo la mezzanotte di recente in Europa, perché rischiamo di portarle, tu lo sai meglio di me Giovanni Capuano, rischiamo in senso ampiamente positivo di portarle tutte e sei oltre le corone d'Ercole dell'inverno delle coppe. Chiusa parentesi, 8-0-0-24-0-0-24. Comunque è chiaro che questa partita non ha storia. Tu sai che io ritengo che la Juventus abbia già il dovere morale di andare più avanti possibile, altro che ottavi, quarti di finale. La Juventus ha già la squadra per poter essere competitiva in questa Champions League. Non credo. Luca da Genova, Luca. Sì ragazzi, prego. Buona giornata. Ciao, ciao Luca, Carlo, ciao Giovanni. Luca da Genova, tifoso della Samp, per adesso quinti o sesti, vediamo domani. Vabbè, quindi sei in riposo. Infatti, purtroppo quell'altra squadra è terza, ma non la guardo neanche. Però quell'altra squadra sta facendo bella un da vedere, gran però, campionato. Bella da vedere. Oggi bellissima da vedere l'altra squadra. No, io lo ammetto, c'ha dei nomi, non male, Perino, Antonelli, bei nomi, cioè, bei giocatori. Però stiamo criticando Temelli. Ok. Carlo, una cosa sugli esoneri, sinceramente, si parla di Bisoli adesso, Bisoli, Doradori, ma ragazzi, ma i giocatori sono quelli, il Cesena è inguardabile, ora è colpa di Bisoli, cioè io non ho capito, come fa a giocare attacco con Almeida, ma Lo Volta. So, ma d'altra parte che cosa vuoi fare? Ma funziona così, lo sai, no? Cioè non la squadra è quella, stavamo parlando prima di luoghi comuni, paga l'allenatore, quindi è chiaro che la classifica è lì da vedere. Il Parma è un'altra storia, secondo me, perché lei davvero, Donadoni, non so fino a che punto possa avere responsabilità per una situazione che è disastrosa dal punto di vista economico, e quando ci sono i quattrini difficile convincere i giocatori ad allenarsi, nonostante siano professionisti. Tutto poi quanto, anche una questione tecnica, è una squadra, il Parma, che ha perso Biabiani, Paletta, Cassani, sta giocando senza giocatori fondamentali per una rosa limitata. Non vale quella classifica, Giovanni, secondo me il Parma non vale comunque quell'ultimo desolante posto in classifica. Il Cesena è una squadra che se la lotterà e se la giocherà per la salvezza fino alla fine, insieme al Chievo, insieme allo stesso Cagliari, perché anche il Cagliari è lì, con le beneficiate che di tanto in tanto regala. Sono tutte squadre che si giocheranno con l'Empoli, sono tutte squadre che si giocheranno la salvezza. Poi è evidente che se qualcosa non funziona, e a Cesena le cose non funzionano, l'allenatore è in discussione, questo è normale. Cesena che non vince dalla prima giornata, Luca è ancora lì, Luca? Sì, sono qua. Cosa fa domani la Samp? Domani Samp-Napoli, che è una grandissima partita. Crocevia. Bellissima. Penso un pareggio, ragazzi, purtroppo. È logico che vorrei vincere per arrivare ai terzi. Credo un pari. Però se fermi bene Higuain, sono un po' dietro, secondo me sono fragili. Ma voi state cominciando a fare qualche pensiero a Genova, che si possa arrivare all'Europa, magari anche all'Europa che conta, se davanti, a parte Juventus e Roma, non corrono? Se ce lo permettono gli arbitri, sì, perché ragazzi, secondo me il Milan ci proveranno a farlo arrivare quarto, e lo sai, Carlo, che è così, dai. No, ci proveranno, Carlo, lo sai. Ci proveranno a farlo arrivare quarto. Adesso siamo. No, terzo mi sembra dura. Terzo mi sembra difficilissimo, perché credo che ancora che il Napoli abbia, insomma, se vince domani sì, molto presto, però credo che potenzialmente il Napoli sia da terzo posto, e mi sorprenderei se non dovesse arrivare lì. Poi, detto che gli arbitri faranno di tutto per far arrivare il Milan, mi sembra un po', sappi un po' di dietrologia. Sampdoria e Genova stanno facendo uno straordinario campionato, e credo che, andando avanti così, siamo solo a novembre, ma l'Europa possa arrivare, ovviamente non l'Europa maggiore, ma quell'altra Europa a cui ci stiamo meravigliosamente abituando, perché credo sia il nostro territorio di caccia prediletto adesso, l'Europa League. Sì, grazie Luca. Intanto ancora Inzaghi, che ha detto: bella gara del Milan oggi, non penso che un episodio potesse condizionare una partita che è stata bella dall'inizio alla fine, quindi gara non condizionata da alcun episodio. Si parlava di quello che giornalisticamente sintetizziamo gol fantasma di Rami, che gol non era, e stiamo parlando del rigore più espulsione che ha spinato la strada alla vittoria del Milan, e di quell'altro tocco Armero su Badu, che ha fatto arrabbiare molto i tifosi dell'Udinese. Fate e non solo. Risate, li vedo tutti seri. Abbiamo sentito Pozzo, che due risate non se le fate assolutamente. Siamo quasi al derby, allora nella Juventus non gioca Buffon, ma c'è Storari, davanti ci sono Vidal, Llorente e Tevez, nel Toro Quagliarella e Amauri, le due punte, nella linea dei cinque di centrocampo c'è il Kadduri, che mi fa pensare che vedremo forse un bel derby, un Toro meno dimesso di quello che ci aspettavamo e di quello che dice la classifica. Il Toro può essere l'occasione per risolvere almeno una parte di una stagione fin qui non felicissima. Volevo, prima di chiudere, salutare Roberto Scaltritti, che ai suoi ultimi istanti a Radio 24 è stato nostro compagno di viaggio per tutta questa lunghissima stagione di Tutti Convocati, durante la settimana, nel weekend, eccetera. Ha vinto il Superenalotto e si trasferisce alle Barbados, dove vivrà per tutta una lunga e felicissima vita. Grazie Roberto. Noi invece restiamo qui fino alle 19:00 24:00 24, Bet Corner. Quote e pronostici. Il match tra Roma ed Inter alle 20:45 chiude la domenica di Serie A, una sfida che qualche anno fa valeva per lo scudetto, ma che ora vede solo i giallorossi in corsa. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria della Roma, è quotata 1,80. l'X è a 3,50, il 2 invece, con il successo dell'Inter, è quotato addirittura 4,50, gol a 1,75, no gol, quotato 1,95. È possibile anche indovinare il primo marcatore di questo match. Nella Roma spicca il nome di Totti, quotato 5, Destro e Ljajic sono quotati 7, Iturbe e Gervinho 8, nell'Inter Icardi 8,50, Osvaldo 10, Kovacic 15, Palacio 12. La Liga offre questa sera alle 21 il big match tra Valencia e Barcellona. L'1, la vittoria del Valencia, è quotata 5,50, l'X è a 4,50, il 2 invece, con la vittoria del Barcellona, è quotato 1,52. In Ligue 1, posticipo interessante tra Saint-Étienne e il Redivivo Lione. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata 2,35, l'X è a 3,10, il 2 invece, con la vittoria del Lione, è quotata 3,15. Questa era l'ultima delle quote di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Click, Moretti. Gazzi attende centralmente, completamente da solo. Moretti preferisce appoggiarsi nuovamente al polacco Click. E siamo a 7 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, derby di Torino, Juve-Toro 0-0, inizio con Toro che ci ha provato nei primi secondi, poi la Juventus l'ha messo lì e sta cominciando a martellare. Non abbiamo Mediaset che sentiamo la voce di Pardo? No, oggi il derby ci ha rubato totalmente Pierluigi Pardo. Oggi siamo in lutto, 800-24-0024, presenteremo richiesta danni Mediaset Premium. È veramente inaccettabile questa, hanno fatto anche lo speciale prima della partita, quindi è iniziato. Ma proviamo a chiamarlo lo stesso. Mentre in telecronaca, sì, quantomeno diamogli fastidio, insomma. 800-24-0024, perché noi restiamo qui fino alle 19, vi raccontiamo il derby di Torino e quindi se lo state guardando abbassate l'audio della telecronaca di Pardo o di Caressa e ascoltate noi e ci chiamate, oppure se volete vivere con noi la vigilia di Roma-Inter, oppure se anche voi avete quelle parole lì che vi girano per la testa. Quali? Me le fai risentire, Giorgio De Luca? Il rigore, va bene, puoi dire che è un rigore dubbio, no? Ma è condizionato, perché poi l'espulsione non esiste assolutamente, no? C'è un rigore su Badu, no? È un arbitro che è difficile, per me non può arbitrare, perché io ho solo l'esperienza con l'Udinese, è stato sempre un arbitro che ha sbagliato tutto e mi dispiace molto, perché io amo il calcio, sono qui da 30 anni, difendo, diciamo, questa istituzione e sta migliorando sotto tutti i profili, fa dei passi avanti in tutto, anche gli arbitri sono bravi, perché io non ho nessun problema, sono 2-3 arbitri scarsi, si elimina questi arbitri, compreso questo qui, fanno una grande cosa per il calcio, sì, no? Perché questo qui inquina un po' un ambiente bello, sì, dove effettivamente adesso nessuno possiamo lamentarci degli arbitri, quei 2-3 arbitri rovinano tutto, questa è la verità. E tra questi è questo Valeri. Si elimina, si prende Valeri e gli altri due che non abbiamo capito chi sono. No, la cosa che mi fa impazzire è questa cosa, per cui bisogna dire che gli arbitri italiani sono bravissimi anche nel momento in cui tu stai sparando a zero su uno di questi arbitri, come, certo, come ha gli fatto altri Pozzo. Poi si arrabbiano, se la prendono, mentre su questo oramai è deciso che non lo vuoi eliminare. Sarebbe interessante capire quali sono gli altri 2-3 arbitri che sarebbero nemici della, secondo l'Udinese. Fammi vedere sta punizione del Torino. Sì, c'è una punizione per il Toro, siamo a circa 25 metri. Ci prova Quagliarella, il destro, parata di Storari, palla che viaggiava con la pioggia che sta cadendo, si vede abbondante e ce l'ha raccontato anche Guido Vaciago. Questi palloni possono anche diventare insidiosi. No, l'altra cosa, l'altra riflessione è a sentire Pozzo che dice: no, adesso siamo tranquilli con gli arbitri, adesso, no, non è adesso come prima, adesso stanno migliorando, prima, chissà a che cosa si riferiva. Non lo so, bisogna chiederlo a lui, perché non esiste, vuole eliminare 2-3 arbitri, uno sappiamo che è Valeri, che oggi ha danneggiato l'Udinese, gli altri due non sono noti, però adesso stiamo migliorando con gli arbitri, si riferisce all'amico di qui sopra che chiamava Orsato, quello non che abbiamo sentito prima, evidentemente aveva in testa ancora quella salutino. Cosa lì. Ecco, aveva in testa ancora quella cosa lì. Dodicesimo minuto, 0-0 tra Juventus e Torino. Mi sembra solita Juve in questo primo pezzettino di partita. La Juventus in questo momento è la squadra più on fire in Italia, questo è evidente. È molto interessante questo intreccio tra il derby di Torino, che ha una chiara favorita ed è quella, non è certo quella con la maglia granata, anche se il Torino non mi sembra che abbia approcciato male questa partita, però dai, non credo che possa esserci derby, retorica del derby, tutto quanto, la cuore granata eccetera, però io credo che la Juventus se la porterà a casa. Intanto siamo sulla zolla di Andrea Pirlo, siamo un paio di metri fuori dall'area di rigore, posizione abbastanza centrale, leggermente spostata sulla sinistra, calcio di punizione per la Juventus con Gillet che sta cercando di organizzare la barriera. Forse siamo un pelo troppo vicina per i gusti di Pirlo, 21 metri dalla porta, fosse stata paradossalmente 4-5 metri più indietro, credo che... Sì, può sempre provare a tirarla sotto, perché ci ha abituato quando è un po' troppo vicino rispetto alla linea della porta anche a tentare la soluzione sotto. Vediamo se riusciamo a raccontarla in diretta questa punizione di Pirlo. C'è Orsato che sta mettendo a distanza tutta la barriera del Toro, ci sono almeno 6-7 uomini del Torino più 3 giocatori della Juventus. Credo che Gillet veda veramente poco di questo calcio di punizione. Parte Pirlo, parla Murata, c'è la richiesta di un calcio di rigore, attenzione, e la dà. Eccolo qui, eccolo calcio qui di rigore, e abbiamo da discutere ancora per una settimana. Volevo fare un salutino. Allora, calcio di rigore per il Torino è nata sinceramente così. Adesso vediamo non so il replay. Non so dirti se c'è o no, perché punizione di Pirlo, murato dalla barriera, Orsato dice che il Kadduri l'ha presa con la mano. Sì, non credo che il colpevole sia il Kadduri. Credo si sia fatto aiutare dall'addizionale di Porta. Ecco qui, lo rivediamo. Tra l'altro Orsato sta facendo rivedere Sky, che poco prima della battuta aveva proprio detto ai giocatori di stare molto attenti al movimento del gomito. Rigore. Eccolo lì, c'è il Kadduri che alza il gomito, siamo all'altezza della fronte. Rigore netto. Tra l'altro hai fatto bene a sottolineare, lo stato è andato in barriera e ha detto ragazzi ha fatto proprio il segno sul gomito. Ha alzato il gomito sopra la testa, questo è... Sì, è, non è sopra, siamo all'altezza dell'attaccatura dei capelli. Ho capito, stiamo facendo saltare, la moviola. Alza il gomito, se uno di noi prova a saltare alzando il gomito il più possibile, fa quello che ha fatto il Kadduri e Vidal. Vidal la mette, 14esimo minuto del primo tempo, Juventus in vantaggio, gol di Vidal su calcio di rigore. Contro l'Olimpiakos, sì, scusa, sarebbe stato il gol del 4-2 che avrebbe di fatto già qualificato la Juventus. Il rigore però va ripetuto. Sì, il rigore che va ripetuto, quindi noi restiamo qui, aveva sbagliato un rigore pesantissimo in Champions League contro l'Olimpiakos. E invece c'è da ritirarlo, quindi Orsato che rimette tutti fuori dall'area di rigore, perché sono entrati in area prima, quelli del Toro, ma credo soprattutto quelli della Juventus, altrimenti non l'avrebbe fatto ripetere. Dai che ci risiamo ancora. Vidal, gol, ha tirato dall'altra parte rasoterra, primo a mezza altezza sulla sinistra di Gillet, il secondo sulla destra di Gillet, rasoterra, stesso risultato, questo vale Juventus 1 Torino 0, 14 minuti 48 secondi, rigore di Vidal che c'era. E Juventus che a questo punto è a più 6 sulla Roma. 8-0-0-24-0-0-24. Se non siete convinti del rigore, chiamate. Se siete convinti, chiamate lo stesso. Ma come fanno a essere convinto di sto rigore? Potete togliermi dall'orizzonte pardo? Dai! Pubblico scatenato. Tutti convocati. Pallone per Yeremenko, c'è spazio a sinistra, la mette giù Milanov, parte la traversone, Zanucci arriva, Zagojev, la palla finisce a rete. Ma basta con queste stupidaggini, no? Io sono qua per parlare di calcio e di cose importanti. sono mezza squadra in tuta che hanno qualcosa da nascondere e basta su questo punto. Stagione, 27 in carriera, un mostro. Parare il mio lavoro, poi ci sono parate di certa difficoltà e poi ci sono anche le cazzate, diciamo, che si fanno. Purtroppo io cerco di farle il meno possibile e sono contento così, dai. Credo che la Roma in questo momento sia sicuramente migliore, ha più confidenza di noi, perché comunque sta andando bene da un po' di tempo. Garcia è un grande allenatore, ha fatto un grandissimo lavoro, ma questo alla fine poi conta o non conta, nel senso che questa è una grande partita, una classica del calcio italiano, Roma-Inter, due grandi squadre. Grande partita, anche se poi la classifica un po' come per Juventus-Torino dice che c'è una gerarchia precisa: 8-0-0, 24-0-0, 24, 19-1-0 per la Juve. Poi parliamo ancora del rigore. Intanto saluto Sebino Nela. Ciao Sebino. Eccoci, buonasera. Eccoci. Ciao. Qui. Classifica che dà una gerarchia chiara, anche se Roma-Inter ha sempre un fascino particolare come partita. Beh sì, assolutamente, la Juventus è quella che è anche quest'anno, forse qualcuno si aspetta non so che cosa dalla squadra in bianco-nero, insomma dopo la partenza di Conte, invece insomma rimane la squadra forte che abbiamo ammirato in questi ultimi anni, appunto. La Roma si ferma subito dietro. Forte. Ma la Roma secondo te questa sera si è lasciata alle spalle quella settimana un po' balorda, Mosca, la beffa, il nightclub, tutto quello che abbiamo sentito? Ma non così balorda, dai Giovanni, è stata una settimana difficile, una settimana in cui la Roma ha cercato di costruirsi una qualificazione e magari ce la va pure, no Sebino? Ma sì, poi il gol subito è stata una casualità, un cross, insomma nel calcio ne abbiamo viste tantissime di queste situazioni, a prescindere da questo. Bene, poi c'è stata qualcuno ha voluto montare un po' una polemica sul dopo match, che ritengo una cosa goliardica, niente di più. Noi abbiamo fatto sicuramente peggio. Sono d'accordo con te, guarda, assolutamente, assolutamente. Modo per invece andare al ristorante, sono andati credetemi, di solito noi ti crediamo Sabino, dei giocatori attuali, ma insomma per quello che mi riguarda, per la mia generazione abbiamo fatto di peggio tra virgolette, perché comunque c'è sempre divertimento, c'è sempre goliardia, insomma già no. Fatto che stavano in tuta, ecco, una goliardata. Sì, effettivamente non c'era nulla da nascondere, altrimenti non esci in tuta da questo punto di vista. Davidista Garcia ha assolutamente ragione. Qualche tuo ex collega, mi viene in mente Marocchi, che abbiamo sentito giovedì, però ha detto dovevano risparmiarsela questa cosa, comunque è stata una scivolata. Segno che il dibattito è aperto. Beh, devo dire che molti di noi da quando lavorano in televisione sono cambiati, parlo per gli ex calciatori, perché credo che nessuno di noi possa portare la bandiera del puritano dopo aver fatto il calciatore, dopo aver giocato a calcio. Insomma, parlare dopo è sempre facile. Io candidamente ammetto le mie colpe, ammetto i miei divertimenti e dico che tutti abbiamo fatto tutte le stesse cose, insomma, quindi va bene, hanno fatto bene, avevano la serata libera data dall'allenatore, quindi anche lì insomma cadono molte cose. Va bene, forse dispiace un po' per la gente, per i tifosi, insomma non fa piacere sapere certe cose, ma insomma credo che appunto goliardata e finisce lì, ecco. Modo per fare gruppo, dai. Sì, visto da fuori questo gruppo è così compatto o c'è qualche crepa? Perché si è scritto anche questo in questa settimana. Io vivo a Roma, conosco l'ambiente Roma e non credo assolutamente che ci siano crepe. Assolutamente no, questo non nel modo. Intanto pareggio del Toro, pareggio del Torino Perez, con Perez, che gollasso, bello, bellissimo, molto bello, un diagonale da destra, palo rete, un bellissimo gol. Si è fatto 30 metri, si è fatto 30 metri da solo, è entrato in area di rigore, spigolo alto dell'area di rigore, ha battuto Storari, ottimo giocatore, ce lo diceva anche Guido Vaciago prima, anzi altro che 30 metri, si è fatto 80 metri di campo. campo da solo. Sì. Si è fatto 80 metri di campo. Sì, sì, è partito. Evra che lo insegue con la lingua fuori, non riesce a prenderlo, neanche ad accorciare le distanze. Segno che Evra non mi sembra esattamente al top della carriera, però questo è partito da... Nella sua area di rigore. È partito dalla sua area di rigore. Non l'hanno pigliato più. È andato per la tangenziale a destra, sulla fascia, è arrivato al limite dall'altra parte. È possibile che Roma e Juve soffrano della stessa malattia a sinistra. Con questi giocatori che vengono dal campionato inglese ormai verso la chiusura della loro carriera, o forse oltre, la chiusura della loro carriera. Comunque, no, la Roma avrà pressione addosso questa sera, io credo. È un momento in cui la Roma deve resistere. La Juventus sta certamente meglio. Fino adesso la Roma è riuscita a resistere magnificamente, però diciamo che la palla è nel suo campo. La Roma, devo dire, ha qualche problemino in più rispetto alla passata stagione. Ha un problema in più perché l'anno scorso non giocava le coppe, primo. Uh-huh. La competizione europea porta inevitabilmente via un po' di energia, sia fisica che mentali. E poi siamo arrivati, credo, a Roma al 15° infortunio, sì, della stagione. Mi sembrano veramente molti. Aveva costruito sulla carta due squadre praticamente da titolari. Credo che abbiano fatto un ottimo lavoro, Sabatini e company, e però poi si è annullato praticamente tutto con tutti questi infortuni. Insomma, questo girare continuamente formazione credo che non abbia fatto bene alla squadra, che tra l'altro sta vivendo anche di una condizione non brillantissima, insomma, ecco. Sì, questa è un po' una fotocopia di quello che è successo l'anno scorso, Sebino, a novembre, 4 pareggi, anche lì c'era stato un calo fisico. Sono stati 4 pareggi però strani, nel senso che la Roma comunque in tutte queste partite ha costruito sempre molto. Infatti i protagonisti sono stati, vuoi una volta l'arbitro e almeno 2 o 3 volte il portiere avversario. Quindi insomma è mancato giusto il gol, però il livello di gioco è rimasto sempre molto alto. Invece quest'anno abbiamo visto già qualcosa di diverso, squadra che non è abituata a farlo, che si è dedicata anche un po' alla fase difensiva, più riflessiva, più conscia, che secondo me qualche problemino in più rispetto alla passata stagione quest'anno c'è. Qualcosa da rivedere nel lavoro di Garcia, infortuni, condizione eccetera? Ma questo forse no, credo che sia solo casualità. Poi se ci mettiamo qualche articolazione, chiaramente non bisogna, certo, parlare di lavoro e di preparazione, quindi insomma no, dobbiamo metterci le nazionali, purtroppo qualcuno si è fatto male anche con la propria nazionale, insomma, ecco. Come finisce stasera? La partita di Torino, la partita dell'Olimpico. che partita ti aspetti? Perché poi Mancini ha detto la Roma è superiore, ma noi siamo l'Inter, però la Roma è superiore. Diciamo, sarebbe una sorpresa questa sera trovare un risultato diverso dalla vittoria della Roma. No, ha chiarito qual è la classifica del campionato italiano Mancini, e da capire, insomma, la Roma lo sappiamo, che così è, da capire questa Inter di Mancini cosa sarà. No, che cos'è, ma cosa sarà. Quindi capire come vorrà interpretare la gara, se in stile Bayern Monaco, quindi andare ad attaccare, però insomma andare ad attaccare abbiamo visto che non è che lo fanno tutti adesso, a dire se la Roma l'attacchi vanno in difficoltà. Ho capito, chi è che si può permettere ad avere un'organizzazione tattica e un livello fisico tale da poter andare ad attaccare una squadra avversaria? Giusto Bayern Monaco l'ha fatto, perché le altre mi sembra che non abbia fatto ancora nessuno. C'è un po' di differenza. Quindi va bene, magari sì, essere un pochino più aggressivi, questo ci può stare, questo potrebbe essere l'intendimento di Mancini, dando comunque sempre una buona copertura alla difesa, che è cambiata, quindi qualcuno si deve abituare ancora, ci vorrà ancora un po' di tempo dal passare a 3 a 4 dietro. Quindi una partita corta mi aspetto davanti da parte dell'Inter, con una squadra però che non rinuncerà poi ad attaccare una volta che entrerà in possesso palla, perché questa è la filosofia del Mancio. E vediamo anche stasera. Curioso di vederla, sì. Grazie Sebino. Grazie Sebi. A voi. Buon ciao, lavoro. Ciao, ciao. Grazie Sebino Nela, 27 sul cronometro. Con buona pace di Marocchi. Sì, con buona, che ci aveva detto, no, non si fa queste cose dopo le partite. Sebino, vabbè, 27 minuti, 1-1. I puritani non ce ne sono. Vidal e Perez, torniamo subito. Comico Evra, comico. Un cordiale saluto dal vostro Luca Giurato. Forza lupi, sono finiti i tempi cupi. Ma mi avete microfonato, non si sente niente, eh? Tutti convocati. Si è liberato Gazzi, si fa vedere ancora Bruno Perez a destra. Eccolo servito, davanti a sé a Vives. Coltore adesso ha preso coraggio perché costruisce da dietro senza problemi, si fanno vedere con più continuità tutti, vedi anche adesso Glick si stacca molto bene, non male per il Toro, non male il Toro che ha incassato il rigore di Vidal e poi mi sembra si sia rimesso in campo bene, bene al di là del gol di Perez, meraviglioso, ha avuto anche un contropiede adesso a campo aperto con salvataggio di Bonucci, mi è sembrato l'ultimo difensore della Juve, comunque non male il Toro. Informazione di servizio, premi ok se non si spegne la televisione, Giovanni adesso Capuano. Adesso premiamo premi okay, grazie, ecco qui molto bene. E vediamo di risolvere la questione. Il televisore si spegne tra 40 39 38 37 secondi. 800 24 00 24. Annalisa da Roma, Annalisa, mentre a Torino siamo al 31esimo. Annalisa, prego. Pronto, buonasera. Buonasera. Ciao. Finalmente, quale onore. Intanto volevo dire alle donne all'ascolto, signore, chiamate, non è possibile che chiamano solamente Ma brava, ma finalmente, ma grazie, Annalisa. Io sono sicura che è pieno di donne che ascoltano. Anzi, vi faccio una confessione. Sì. Una confessione ve la faccio. Che quando io devo fare qualcosa, che devo andare in macchina, cerco di farla sempre fra le 2 e le 4. Ma grandissima. Mi puoi telefonare tutti i giorni, per favore? E rinnoviamo l'appello a tutte le signore all'ascolto. Sì, chiamate. Allora, guardi, io ho chiamato perché ho sentito il discorso sullo striptease romanista, ovviamente sono molto romanista. Però il discorso è questo. Primo, io avrei potuto concepire lo striptease se avessero vinto. Cioè, se tu perdi al 15° secondo dalla fine, non ti puoi premiare. Cioè, anche te devi essere un professionista. Quindi, se vinci puoi, se perdi in no, se pareggi. Se pareggi, cioè, se è stato fesso, avevi la partita in mano, noi abbiamo sofferto. Cioè, io penso tutti i romanisti hanno veramente sofferto con gli ultimi 15 secondi. E quindi non puoi premiarti. Seconda cosa, la cosa più importante è questa. Cioè, quando un atleta, io sono stata anche allenatrice, quando un atleta sta fuori dal campo, non è che lui è un'altra persona. Cioè, lo stile di vita è sempre 360 gradi, è 24 ore su 24. Cioè, non ti puoi sballare quando sei fuori, perché quello che fai fuori poi incide sul campo. Sì, però Annalisa, sono rimasti un'oretta fuori dall'albergo. Avevano 2 ore di permesso. Tra l'altro col permesso ma della società. Quello, io non riesco a capire quello. Dove allora, sia okay, il problema. Francesco Totti cosa fa? Annalisa, se questa sera la Roma perde con l'Inter, facciamo un esempio, io non credo, che c'entri nulla quello che è successo a Mosca. Allora, guardi, io posso dirle anche una cosa, sono anche psicologa oltre che insegnante di educazione fisica. Quello che noi facciamo, cioè quello che noi siamo, lo siamo sempre, cioè tutto quello che noi facciamo incide anche come stiamo in bagno su quello che, su quello che è il nostro lavoro. No, questa è una cosa che non ci si pensa mai. Uno dice, ah, quello è un grosso professionista, quando esce dall'ufficio può fare quello che vuole. No, perché noi siamo sempre un tutt'uno, per cui secondo me oggi saranno un po' stonati, un po' insomma, un po' rimbalditi. Ma però, Annalisa, io non sarei. No, guarda, sicuramente. Ma non è un fatto di moralismo, non è un fatto di moralismo. No, ma ho capito, no, però sono anche dei ragazzi di 22-23 anni. Sono ragazzi di 22-23 anni che voglio dire, sono ragazzi 22-23 anni, sono atleti, secondo me sarebbe controproducente anche chiuderli nel pollaio e lasciarli lì. No, però posso dire una cosa. Intanto sono passati 5 giorni dalla notte di Mosca. Vabbè, 4-5, quello che sono. Comunque Francesco Totti, perché è rimasto l'unico che ha segnato, tra l'altro. Sono ancora, sì, secondo me è rimasto fuori perché Francesco Totti ha capito che avrebbe avuto anche altri problemi. Per tutto quello che rappresenta Totti, Ilari Blasi, mettiamo fosse uscita la foto con Totti al posto di Borriello sulla soglia di quel nightclub, noi ci saremmo divertiti anche di più, però Annalisa, credo che Totti, da persona matura, abbia preferito evitare, o no? Vi faccio finire, cosa hanno chiesto i giocatori ai fotografi? Per favore, ci mettete in difficoltà con le nostre famiglie. E quindi non hanno pubblicato le foto, così hanno fatto, perché mi sono letta le notizie anche sui siti russi. E quindi cosa vuol dire? Che loro effettivamente... Sì, che si erano accorti di aver fatto una leggerezza, però insomma, si è anche ricamato molto su questa cosa qui. Guardi, io quell'unico punto che voglio dire è questo: attenzione, perché un grosso professionista, più è un grosso professionista, più deve stare allerta 24 ore su 24, perché lo stile di vita che noi abbiamo incide su tutto quello che facciamo. Vabbè, aveva ragione Marocchi, dai, aveva ragione Marocchi e non Nela, Annalisa, dovevano evitarla. Grazie Annalisa, 35-1-1 tra Juve e Toro. Faremo di tutto per giocare bene, per vincere questa partita, ma il campionato non dipende dalla partita di domenica, è la più importante, la più importante dell'anno, ma solo perché è la prossima, e dopo quella sarà il Sassuolo. La Roma, ho giocato la Lazio, quindi sono stati giocato tanti derby, ho sempre avuto grande rispetto per la Roma, perché nonostante fosse l'antagonista a Roma, però non ho mai nutrito sentimento di come a volte capita, quindi non ho veramente, anche avendo giocato nella Lazio quegli anni lì con l'Inter, sono state le due squadre che sono contese lo scudetto sempre, e quindi sono state grandi sfide, poi insomma grandi giocatori come Totti, De Rossi, tutti quelli che avevano, sono state bellissime partite. Intanto un minutino fa il Toro ha avuto l'occasione per andare sul 2-1 con Amauri all'interno dell'area di rigore, all'altezza del dischetto. Amauri che è stato murato dalla difesa della Juventus. Grande primo tempo però del Torino, che sta dimostrando di non soffrire la differenza di carattere, la differenza di classifica, la differenza di qualità che c'è in campo rispetto alla Juventus. Grande primo tempo del Toro, che è fermo sull'1-1 Vidal e Perez. Le facce parlavano chiaro, il Torino l'ha approcciata bene questa partita, nonostante il gol subito su rigore che c'era, è trasformato da Vidal, ha trovato questo meraviglioso quanto strano pareggio di Perez e sta giocando un eccellente primo tempo. Tu che idea ti sei fatto di Roma-Inter di questa sera? Di Roma-Inter. Ah, che idea mi sono fatto di Roma-Inter di questa sera? Mi sono fatto l'idea che è una partita estremamente interessante, una partita che non è scontata come si potrebbe pensare. Sono molto curioso di vedere i progressi dell'Inter di Mancini. Nel derby abbiamo visto veramente poco, secondo me, del disegno di Mancini. Una settimana in più di lavoro, io direi che per la Roma è una partita scivolosa. Anche la partita con il Dnipro è stato un netto passo indietro. Pensa se giovedì sera a San Siro ci fosse stato Mazzarri sulla panchina dell'Inter, credo sarebbe stato sepolto dai fischi. Mancini sta godendo ancora della luna di miele che ha con tutto l'ambiente, e quindi si è salvato con Handanovic, e alla fine ha incassato quello che gli serviva, cioè una vittoria con la qualificazione. Però questa sera è difficile per la Roma, è difficile per l'Inter a Roma. Temo di sapere chi è. Eccomi qua, sono qui, anzi sono qua, e su qui qua l'accendo non sì. va, a prescindere. Va bene, stiamo facendo anche noi pronostici, allora facciamo il contest, Erse. Sì, facciamo sempre pronostici, tanto non li prendiamo mai. Allora, come finisce Roma-Inter? Ma non era il derby di Torino? No, derby di Torino sta giocando adesso, 38 minuti 1-1, quindi noi adesso facciamo il pronostico su Roma-Inter di questa sera. Come finisce Roma-Inter? Roma-Inter? Sì. E che cazzo ne so? Ma come? Ma no, io stavo scherzando, perché bisogna drammatizzare la tensione che si taglia con una sega. Sì, veramente si taglia col coltello. Sì, poi il coltello adesso non ce l'ho, allora no, uso la sega. Sì, poi noi non siamo nervosi, non c'è tensione. Stiamo ragionando su Roma-Inter. E vogliamo sapere un pronostico. Questa è la voce del mitico Genta, ti riconosco. Genta, sì, sono io. Allora, io ero partito con aspettative molto alte per l'Inter, a prescindere. Sì, quindi vince l'Inter. Quindi no, il pronostico è Roma-Inter 2. No, vince la Roma, segna Dodò. Dodò gioca nell'Inter, sì. Ah sì? Ma non giocava nella Roma? L'anno scorso, adesso gioca nell'Inter. Allora vince l'Inter e segna destro. Sì, che gioca nella Roma. Ah sì? Sì. Ma non giocava nell'Inter? Sì, ma tanti anni fa, quando era un bambino. Allora sapete cosa vi dico? Finisce 0-0 e non ne parliamo più. A prescindere. Ciao Serse! Ma come si fa a tenersi sti pronostici una volta lo dobbiamo dire a Giorgio De Luca, autore di questa trasmissione, che la prossima volta deve chiamare prima il nostro finto Serse Cosmi, che è Andro Mercur. Ma non è vero? No, non è quello vero. Ah, sì. E almeno deve dirgli per bene che partita è. Intanto Juventus vicinissima al raddoppio, azione sulla sinistra di Evra, palla in mezzo e Vidal che non ha trovato il pallone, non ha trovato la porta, palla sopra la traversa. Juventus che forse ha un po' nelle gambe i 90 minuti di Coppa con il Malmo, 90 minuti che sicuramente sono stati dispendiosi non tanto per la qualità dell'avversario, perché il Malmo era assolutamente un avversario alla portata, quanto perché dal punto di vista psicologico si trattava di una partita spartiacque della stagione della Juventus e probabilmente qualcosa ha portato via, meno brillante rispetto ad altre occasioni. Sì, è un po' meno brillante anche stasera, mi pare di vederla almeno così. C'è chi dice, l'ascoltatrice ha ragione, Annalisa da Roma, è sembrato che a quelli della Roma non gliene fregasse nulla di come era andata a finire la partita a Mosca. Ma no, ma non sono d'accordo, non sono d'accordo assolutamente su quel discorso. Punto e basta, secondo me non c'è niente di male, non inciderà su quanto è successo a Mosca, non inciderà sulla partita di stasera con l'Inter, sono tutti discorsi abbastanza, secondo me, di retroguardia. Poi c'è Marco che invece continua a scriverci: ma che bel Genoa. Ma ha ragione assolutamente. Il Genoa è la notizia forse della domenica pomeriggio, no? Perché veramente va in trasferta, è chiaro che il Cesena ha i suoi problemi, ma l'ha letteralmente disintegrato con un primo tempo da cinema. Poteva quella partita, sì, nonostante Inzaghi dica dovevamo finire il primo tempo sopra 2-3-0, cosa che non è realistica, il Genoa ha impacchettato il Cesena in un tempo. Quella partita davvero, primo tempo, poteva finire 5-0 comodo. Sì, Genoa che sta viaggiando su livelli che non ricordavamo da anni, credo che mai a questo punto della stagione in epoca recente sia stato così in alto in classifica. Intanto altro calcio di punizione, siamo un po' più defilati, sempre a una ventina di metri dalla porta dei Gillet, c'è sul pallone ancora Pirlo, 42-40 sul cronometro, c'è assembramento in area di rigore e c'è Pirlo che è pronto a metterla dentro, parte il suo traversone, palla che rimane lì, limite l'area di rigore, palla che poi finisce fuori, Juventus che non trova, in questo caso ci ha provato Lichtsteiner, Juventus che non trova lo specchio della porta di Gillet, anche se c'è stata una deviazione, e quindi ci sarà un calcio d'angolo. Siamo nel finale di questo primo tempo che per la Juventus era partito benissimo e che poi si è complicato. Abbiamo visto un gol meraviglioso, quello di Peres del Torino, e abbiamo visto anche un Toro che con coraggio non si è fatto schiacciare, ha sofferto soltanto nei primissimi minuti. Ancora Pirlo, il pallone in mezzo, ancora un tocco mi sembra della difesa del Torino, quindi ci sarà un altro calcio d'angolo, quindi Torino che chiude assolutamente in attacco, in difesa, scusate, Juventus che chiude assolutamente in attacco questo primo tempo, calcio d'angolo già battuto, palla in mezzo, la prende Gillet, e quindi 1-1 quando manca un minutino e mezzo circa alla fine di questo primo tempo. Juventus non bellissima, Juventus che in questo momento ha 4 punti di vantaggio sulla Roma. Traffico. Tutti convocati. Siamo proprio agli ultimi secondi, attenzione perché c'è ancora il Torino in avanti, Torino che ha provato a insidiare la difesa della Juve. Finito il primo tempo, 1-1 il derby di Torino tra Juventus e Torino. Giudizio del primo tempo. Beh, giudizio del primo tempo, 45 minuti esatti per Orsato, col cronometro in mano, 45.00, nemmeno un secondo di recupero. No, è stato un bel primo tempo giocato magnificamente dal Torino, che aveva la faccia giusta all'inizio della partita, ha subito quel rigore, ripetiamo, su punizione di Pirlo, barriera scomposta, sì, gomito di Elkadduri, un gomito un po' troppo alto. Molto poi alto. Ci sarà da discutere anche su questo, però rigore che sembra esserci, sì. Trasformato due volte da Vidal, perché l'arbitro l'ha fatto ripetere, e poi questo gol, devo dire, strano e bellissimo, perché cost to cost di Perez, che è partito praticamente dalla sua area, si è fatto tutta la fascia destra del campo, inseguito da Evra che non gli ha preso neanche un metro, e Perez con la palla al piede ed Evra che lo rincorreva con la lingua fuori, e dopo quella aspetta galoppata, che te lo faccio sentire, c'è l'intervista a bordo campo. Loro hai dato spazio per fare questa cosa e grazie a Dio hai fatto un bel gol e adesso hai aiutato la squadra di Torino. C'è una dedica? Per mia moglie e tutti i tifosi di Toro. Grazie, complimenti. Oh, sai chi mi ha ricordato Perez con questo gran gol? Sì. Bale l'anno scorso nella finale della Coppa del Re. Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Phil. Non so ciao. Se hai visto il gol di Perez o se ti stai occupando di altro. Ha ricordato un po' il gol di Bale. Sì, senza l'uscita però, no? Sì, però qualche metro in più. Però qualche metro in più. Beh, quella di Bale rimane agli occhi perché c'è anche la deviazione. Sì, fuori dal campo. Fuori dal campo, che è molto, molto scenografica, però sì, assolutamente. Benissimo gol. E invece bruttissima giornata in Spagna. Se ci aiuti a raccontarla, insomma, da questa mattina a Madrid. Sì, guarda, è una situazione incredibile per due motivi. Il primo è che fortunatamente noi qua non siamo abituati a questo tipo di situazione, cioè in Spagna gli scontri sono pochi, contenuti, sotterranei, insomma non è, il problema della violenza è stato affrontato e abbastanza anche risolto. Certo, uno dice una cosa del genere nel giorno in cui c'è un morto, però questa è una situazione incredibile. Ovviamente le motivazioni sono molto, molto politiche. Si sono trovati, diciamo, a fronteggiarsi i tifosi dell'Atletico che sono di destra, quelli del Deportivo che sono di sinistra, appoggiati da quelli del Rayo e dell'Alcorcón. Però la cosa clamorosa è che erano circa 200 persone coinvolte e si sono picchiati per tantissimo tempo in piena città, cioè quello è il parco sotto il Calderon dove anch'io vado con i bambini a portarli in bicicletta. Cioè, c'è una grande ciclabile. Sì, abbiamo visto queste immagini che danno su questo fiume. Sì, sì, sul Manzanarre, no? Il famoso fiume manzoniano del 5 maggio, dove appoggia il Calderon. Siamo a un passo dal Calderon, però quella è una zona frequentatissima da Madrid. Questi si sono dati appuntamento per WhatsApp e poi se ne sono date di santa ragione. E alla fine, a forza di darsene, si è scappato il morto, perché questo signore che è morto, 43 anni, un figlio, è un super ultras, non è uno capitato, non è uno che passava di lì. No, assolutamente, cioè, questo era lì per darle, le ha prese e a un certo punto l'hanno anche buttato nel fiume. E voglio dire, cosa tragica, tremenda, però lì, qua non c'è nulla di casuale e la polizia ci mette un sacco a intervenire, questo io non riesco a capire. Ci sono tutti questi video girati dalla gente che sta sui terrazzi, perché è come se fosse sotto casa, cioè una zona, c'è uno stadio vicino, ma insomma sì, siamo in piena città, San Siro, che ne so, nel parchetto dovranno giocare i residenti di San Siro. Ti faccio sentire qualcosa, faccio sentire anche gli amici da casa qualcosa proprio a livello sonoro di cosa è successo questa mattina a Madrid. Questi sono i rumori di questa gigantesca rissa, tra l'altro erano le 9 del mattino, mi pare di aver letto, Filippo. Sì, perché la partita era a mezzogiorno, sono arrivati col pullman dalla Corugna e quindi anche un viaggio lungo, appena arrivati sono stati aggrediti, ma insomma sorpresa poca, nel senso che da quello che sembra si erano dati appuntamento. Ecco, è vero che quelli del Deportivo erano appoggiati dai madrileni di sinistra del Rayo e dell'Alcorcón. In Italia stupisce molto che poi si sia giocato regolarmente. Ma sì, anche lì guarda, una cosa patetica, perché praticamente la Liga è stata la prima a reagire accusando la federazione, dice no, noi non possiamo sospendere perché la sospensione deve arrivare dalla federazione che deve chiamare l'arbitro, e praticamente noi abbiamo chiamato qualcuno della federazione, c'erano tutti i telefoni staccati, non c'era nessuno e allora si è giocato. Dopodiché la federazione dice no, ma noi l'abbiamo saputo tardi, e dice a 10 minuti dall'inizio non si poteva sospendere perché c'era lo stadio pieno. Dico vabbè, invece dopo, ma abbastanza surreale, i giocatori anche secondo me hanno festeggiato la grande, poi è venuto Godin a dire no, ma noi lo sapevamo molto bene, insomma. Sì, solite scuse. Il presidente dell'Atletico che dice no, sarete paggianate, in queste cose non c'entrano niente col calcio, erano lontani dal Calderon, a 100 metri, Sono un po' persi, un po' impreparati, forse anche per quello che dicevo prima, per il fatto che qui fortunatamente questa cosa non succede neanche. Sì, no, normalmente non c'è l'abitudine in Spagna di andare in trasferta a vedere la tua squadra, questo non esiste. Però io mi domando, c'è una situazione di questo tipo, è possibile che tutti caschino dal pero in questo modo, Filippo? Non sapevano che stava per succedere, poteva succedere, eccetera, eccetera. Dilettanti allo sbaraglio? Allora, la partita era considerata a basso rischio. Questo non lo dico io, lo dice la polizia. E fortuna che era a basso rischio, no? Uno viene a dire, perché allora c'era tanto rischio. Certo, ovviamente ci sarebbe stata forse più polizia. Comunque, la partita era considerata a basso rischio. E non, sì, le tifoserie non sono in buoni rapporti perché appunto sono di differenti colori politici, però non ci sono veramente grandi precedenti. Comunque la partita era a basso rischio, quindi poca polizia e tanti ultras, però che dopo appunto poi mi si venga ancora a dire che no, anche Simone dice no, ma è gente che sfrutta il calcio per fare altro, un problema sociale, non un problema del calcio. Sì, va bene, ma insomma soliti discorsi, li abbiamo sentiti. Cosa succede adesso? Perché in Italia, quando sono successe queste tragedie, poi qualcosa è cambiato, c'è stata una stretta, si è anche fermato il campionato. Cosa succede allora, in Spagna? Ti dico, cioè, per esempio, qui l'esempio più facile da fare è quello di Joan Laporta, presidente del Barcellona, che ha preso e ha cacciato dallo stadio i Boys of Noise, con tanto di minacce, è dovuto andare in giro scostato, dicendo, però li ha cacciati via. E poi dopo, però, il presidente che è venuto dopo di lui, Osel, ha di nuovo stretto amicizia con questi personaggi. E il Frente Atletico, protagonista oggi della rissa, al Calderon, ha una presenza fortissima. È un elemento importante, per cui bisogna vedere che cosa decide adesso l'Atletico. Sì, se avrà la forza di prendere una decisione drastica. Qui non si tratta di un centinaio di persone, il Frente Atletico riempie una curva e insomma sono personaggi conosciuti e anche con un certo peso. Si tratta di dichiarare guerra alla parte calda della tua tifoseria, operazione non semplice e non scontata anche per i tanti intrecci che ci sono in Italia, ma non solo in Italia evidentemente, tra i club e questa gente. Intanto Filippo, 78 metri ha corso Perez prima di calciare a 97 però, all'ora. Però. Questo è il gol dell'1-1 del Torino, altro che Bale. Però Perez. Però. Ciao Filippo, grazie. Ciao a voi, ciao. Grazie, ciao, Filippo. Ciao, grazie, ciao, Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport Madrid. Di corsa e questo ha ancora la lucidità e la prontezza di sparare questa a 97 diagonale. Chilometri all'ora sul secondo palo. 1-1 e così sono andati a riposo Juventus e Torino. Abbiamo finito, appuntamento domenica prossima dalle 17 per tutti i convocati weekend. Domani, dopo il GR delle 14, Carlo Genta e Pierluigi Pardo, con le tradizionali due ore, se lo liberano. Il riscatto per Pardo. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Roby Scaltritti, che non c'è più, e Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo settimana prossima, ciao. Arrivederci e grazie, baci e pace bene a tutti. Tutti convocati.